se c'è traso d'osol in da stocchia verde per m'annamurà. Forse c'è passato vento in da sti capigli per mi fa morire. Io che mai da faccia perdere non mi morte tutte le bocche che passate, tutte le volte che questo ci hanno gli agnuti. Quando vado rindolette fatta amore siamo andati prima di me. Annamorata mia zitto, e quando la notte non ci stai chissà che fai. Io non vedo l'ora di sposa. Io sono la terra e tu sei un fuoco rindo a me. Come c'è l'insieme e nuvola che fosse se non stessi in braccio a me. Che voglia tenga e te vasa. E tu fidi sta serata, quanta cosa bella da già raccontare. Non mi basta poco tempo, che voglio per sempre ancora stretta a me. Io che mai da faccia perdere non mi importa tutte le bocche che passate, tutte le volte che chi stuccia hanno gli agnuti. Quando vado rendo l'ette fatta amore insieme a nato prima di me. Annamorata mia sei tu, e quando la notte non ci stai chissà che fai. Io non vedo l'ora di sposa. Io sono la terra e tu sei un fuoco rindo a me. Come c'è l'insieme nuovo la che fosse se non si sembraccia a me. E pure pianghi in una stanza una lacrima in toma. E ma voglio accontentarsi troppo fatta amore non è stato guardato. Tu sei l'alba da mattina vena a scena. C'è l'insieme e nuvola che fosse se non stessi in braccio a me. E muro bianco in una stanza una lacrima in doma. E ma voglio accontentarsi troppo fatta amore non è stato guardato. Tu sei l'alba che mattina venamo che scetà. Tu sei l'alba che mattina venamo che scetà.